Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Eccomi qua, buongiorno a voi dalla vostra salutare ossessione quotidiana in versione weekend, ma do subito anche il benvenuto alla professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia del SAC Università di Milano, che è un centro di riferimento nazionale per le bioemergenze, che ho invitato, come potrete immaginare, per leggere e commentare con noi oggi le ultime notizie del virus cinese. Noi ormai lo chiamiamo così. Professoressa Gismondo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Professoressa, in realtà un nome lui ce l'ha e anche una famiglia. Beh, fa parte dei coronavirus ed è stato chiamato N-coronavirus 2019 proprio perché è apparso negli ultimi giorni del 2019. Io intanto invito le amiche e gli amici che mi stanno ascoltando a intervenire al 349-238-6666 con un messaggio, con un WhatsApp, se avete dubbi, domande, richieste, la professoressa Gismondo è a nostra disposizione. Professoressa, allora partiamo dalle ultime notizie. Le ultime notizie ci hanno dato dei numeri maggiori rispetto a quello dei giorni precedenti per numero di soggetti infettati e oggi si ha la novità, la notizia che sono stati reputati, diagnosticati positivi 3 casi in Francia. Io vorrei partire, se le va bene, proprio da qua, perché vedo che già la gente è allarmata, è arrivato in Europa. Vorrei fare chiarezza su questo punto, se me lo concede. Mi piace molto, devo dire, professoressa Gismondo, che l'ho invitata apposta per aiutarci a leggere le notizie con il suo occhio clinico. L'incontro del giornalismo, della comunicazione e della scienza. E voilà, mi sembra ottimale, ottimale. Andiamo allora. Il fatto che si siano intercettati, diagnosticati 3 casi, Parigi e Bordeaux in Francia, non deve assolutamente essere interpretato con il fatto che il virus stia circolando in Europa. Questi casi sono detti contagi secondari, cioè sono soggetti che sono partiti da quella zona della Cina dove il virus circola e sono arrivati in Europa. Io, che sono sempre un ottimista, lo interpreto. Ottima sanità, in Francia hanno subito intercettato 2 infetti. È come se il virus abbia preso la valigia. Sì, ho sempre detto anche in questi giorni, i passeggeri hanno con loro un bagaglio che non è solamente di indumenti, di oggetti, ma portano con loro batteri e virus. E quando ci sono queste emergenze è ovvio che prima che ci si accorga, che si faccia un cordone sanitario, che ci siano messe in atto tutte le misure per intrappolare il virus, qualcuno si mette nel bagaglio di un passeggero e va in giro per il mondo. Intanto vi leggo il messaggio di un ascoltatore che subito ci ha scritto su WhatsApp al 349-238-6666. Sto programmando un viaggio a Budapest per il prossimo mese, meglio evitare. Professoressa Gismondo. No. Per carità, prendiamoci le nostre giornate di vacanza, di lavoro. Per la prima volta la Cina è stata trasparente nella sanità, nell'emergenza e grazie al cielo, grazie a questa apertura, conosciamo molto bene quelli che sono i confini di allarme e quelli che non lo sono. Al momento l'Europa è tranquilla, non circola il virus, quindi assolutamente possiamo fare tutti i viaggi che vogliamo. E anche l'OMS, proprio giovedì scorso, ha deciso di non dichiarare l'emergenza sanitaria internazionale, professoressa Gismondo. Non lo è, perché lo diventa quando ci sono focolai lontani, diffusi nel mondo, lontani dal primo focolaio. In questo momento abbiamo la concentrazione numerica dei pazienti infetti esclusivamente in Cina. È vero che dalla prima provincia infetta si è allargata l'infezione ad altre province, ma è inevitabile perché prima che ci fosse questo stretto controllo la gente viaggiava e quindi, siccome la malattia ha giorni di incubazione, 7-8 giorni di incubazione, è verosimile che 8-9 giorni fa qualcuno si è spostato da Wuhan ad altre province, era già infetto e si è portato dietro il virus. L'altra notizia su cui vogliamo un suo commento e un aggiornamento è che ci sono delle equip che stanno lavorando ad un vaccino. Ci sono 4 o 5 equip al mondo che stanno lavorando al vaccino. Ormai le tecniche, le biologie molecolari, le bioingegnerie sono tali che praticamente è quasi possibile avere un vaccino per qualsiasi virus, qualsiasi batterio. Dico quasi, perché non è sempre così. E sicuramente arriveremo ad un vaccino. Ovvio, per arrivare ad un vaccino non c'è la necessità esclusiva di costruirlo in laboratorio, ma è anche necessario assaggiarlo con dei pazienti, è anche necessario vedere se si è architettato questo vaccino in maniera tale che stimoli le nostre risorse immunologiche. Non è un vaccino che potremo avere fra qualche settimana, assolutamente. Allora, intanto io le passo le domande che arrivano via WhatsApp 349-238-6666. Abbiamo fatto proprio questo speciale virus cinese per mettervi in contatto con i nostri esperti. Mio figlio universitario dovrebbe partire per Shanghai a fine febbraio per uno scambio universitario. Che fare? Lo fa partire o no? Professoressa Gismondo, da ora a da mamma febbraio, e da virologa. Da mamma non lo dico, perché sono molto schioccia in questo, però non è giusto limitare i nostri figli con le nostre ansie. Rispondo da virologa. Da virologa dico che da qui a fine febbraio è per questa situazione di allerta, per un'infezione, è un tempo immenso. Potremmo averlo dimenticato, potremmo essere nel mezzo di una, speriamo, emergenza mondiale. Quindi non si può adesso consigliare o sconsigliare un viaggio di fine febbraio. Io dico a questa collega mamma, dico a tutti, non andate sui vari siti, su internet, non googlate per trovare la risposta ai vostri enigmi e alle vostre giuste paure. Andate esclusivamente sui siti istituzionali. Il sito dell'OMS, il sito del Ministero della Salute e nelle varie regioni. Noi in Regione Lombardia abbiamo un Lombardia Online che in tempo reale aggiorna i cittadini su tutto ciò che bisogna fare e che è necessario fare. Quindi siamo in Italia, siamo, mi permetto di dire, in una botte di ferro, abbiamo una sanità organizzatissima. Il Ministero della Salute già dal 9 di gennaio è in allerta. Io lavoro in Lombardia, il nostro assessore immediatamente ha recepito dall'OMS questa attenzione sui primi casi e ci ha subito riuniti per fare una task force. Quindi stiamo tranquilli, abbiamo tanta gente che lavora per noi. Professoressa Gismondo, noi ci fermiamo, diamo le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo qua. Intanto saluto il prossimo ospite, l'ingegner Saro Capozzoli, che è già in linea con noi. Vive per lavoro dal 1990 in Cina, da cui è tornato da una decina di giorni. Ci faremo raccontare che atmosfera ha lasciato e che cosa pensa di ritrovare, che cosa gli stanno raccontando i suoi colleghi, gli amici che sono in Cina, per respirare un po' quell'atmosfera. A tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Veloci veloci siamo tornati insieme alla professoressa Maria Rita Gismondo. Oggi nella puntata di Obiettivo Salute Weekend diamo una risposta, la professoressa Gismondo dà una risposta a tutti i nostri dubbi sul movimenti del virus cinese. In linea con noi, come vi ho anticipato, però abbiamo un altro ospite, l'ingegner Saro Capozzoli. Ingegnere, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie per essere intervenuto. Lei ha lasciato la Cina, dove vive dal 1990 per lavoro, una decina di giorni fa. Che Cina ha lasciato? Ma in quel momento lì è quasi praticamente un qualcosa di localizzato a Wuhan e non si sapeva bene tutto quello che ci sta adesso. Ecco, c'erano dei casi, Però diciamo che la città come Shanghai, ma in generale i cinesi hanno vissuto già l'esperienza della SARS del 2002-2003 e ho visto che c'è massima fiducia nelle autorità, ecco. Infatti hanno reagito nel senso con tranquillità, chi doveva partire è partito per le vacanze, pochi hanno rinunciato diciamo alle loro ferie annuali che cadono proprio in questo periodo col Capodanno cinese. Tra l'altro in Cina, professoressa Gismondi, è stato attivato questo cordone sanitario che sembra, detta della stessa rappresentante dell'OMS a Pechino, non avere precedenti. Quindi sembra che un po' la Cina... ci ha insegnato tanto, sì, la SARS ci ha insegnato tanto. La non trasparenza che hanno avuto i cinesi nel 2002-2003 è costata carissimo, è stato un fenomeno, oltre che sanitario, forse più che sanitario, di disastro economico. Quindi questa volta i cinesi hanno imparato la lezione, hanno ricordato la lezione e subito hanno chiesto collaborazione e sono intervenuti, devo dire, con operazioni massicce. Ci sono circa 50 milioni di persone dentro il cordone sanitario, direi una misura molto importante, molto imponente, della quale i cinesi devono essere orgogliosi per questo loro nuovo modo di collaborare. Ingegnere, lei che notizie ha dalla Cina, dai suoi colleghi di lavoro, come stanno vivendo? Beh, in questo momento gli uffici sono chiusi. Sì. Quello che ci è stato detto è di fare in modo che quando si riapriranno gli uffici, di fare in modo che, se è possibile, di far fare del lavoro a casa. Cioè, se un lavoro può essere svolto a casa, è meglio evitare, diciamo, come precauzione, sì, diciamo, ecco, in modo da poter evitare che la gente stia troppo in metropolitana, eccetera, ma proprio come precauzione. Io quello che posso dire è che vedo che i cinesi reagiscono un po' come un alveare, c'è un problema, tutti quanti incominciano, si concentrano sulla la risoluzione del problema, non ci sono questioni, no, ma io perché sono bloccato qui non posso, no, hanno capito e cercano di collaborare, c'è molta collaborazione. Lei quando tornerà in Cina? Settimana prossima. Settimana prossima e vado giù tranquillo. Ho avuto anche qualche cliente che mi ha chiamato dicendo: ma cosa facciamo? Shanghai è una città sicura. Le precauzioni che ci chiedono, appunto, quello di indossare la mascherina, ma proprio quando si deve andare in metropolitana, nei posti affollati. E il problema che c'è adesso in Cina è trovare le mascherine, questo è il problema, perché è stata una cosa che adesso la produzione sta immettendo milioni e milioni di mascherine, proprio perché che vengono, c'è stato un po' di difficoltà. Senta, si porti un po' di mascherine dall'Italia, professoressa Gismondo, che possiamo dire all'ingegner Capozzoli? Ma io so che hanno bloccato l'esportazione di mascherine dalla Cina, proprio per lasciarle in massima disponibilità all'interno. Però non vorrei parlare, per carità, di mascherine in Italia, perché non c'è bisogno di indossare le mascherine. Non vorrei che si facesse come durante la SARS, le farmacie non avevano più mascherine anche per quei pazienti che ne avevano bisogno per altre malattie. Per altre malattie, professoressa ma l'ingegner Capozzoli se ne torna in Cina. Ingegnere, buon viaggio, grazie per essere tornato e chissà, magari ci risentiamo. Buona giornata. Buon viaggio. Professoressa Gismondo, noi torniamo dal nostro virus, perché anche lui, come i suoi simili, fa quello che deve fare, cioè si sposta e cerca di infettare quante più persone possibili. Ma quanto è aggressivo e veloce questo virus cinese? I virus in generale, per vivere, hanno bisogno di infettare degli esseri viventi, non sono capaci di vivere autonomamente, cosa che può accadere per i batteri. Il virus passa da un essere vivente all'altro, se non trova un altro essere vivente muore, perché non riesce a produrre per la sua vita una serie di elementi essenziali che sono assolutamente poi presi come un parassita dagli esseri viventi. Quindi è una necessità biologica quella di infettare. Il fatto che si parli di infettività, ogni giorno c'è un commento diverso, è un momento prematuro. Purtroppo, di quanto sia cattivo un virus si danno notizie certe a posteriori, dopo che si è si sono osservati migliaia di casi, dopo che si sono dedotte delle considerazioni su quello che è stato il comportamento del virus. In questo momento, stante i numeri ufficiali, perché non sappiamo se i casi ufficiali siano i reali casi avvenuti, ma questo non solo perché qualcuno li abbia potuto nascondere, ma perché, essendo una malattia con sintomi assolutamente sovrapponibili a un'influenza grave, e anche la polmonite esiste come malattia a prescindere dal virus dal coronavirus 2019, magari alcuni casi non sono stati individuati come coronavirus 2019, quindi noi vediamo la punta dell'iceberg. E malgrado questa, diciamo, riduzione di numeri che sono venute alla nostra osservazione, sembra essere un virus abbastanza aggressivo, ma soprattutto mortale. In questo momento la mortalità è intorno al 20%, allora, quindi è molto elevata. Professoressa Gismondo, qualche domanda che mi viene suggerita dagli amici che ci stanno ascoltando. Damiano ci scrive: ma la domanda è, come mai questi virus ultimamente provengono e si sviluppano tutti in Cina? Ci scrive un'altra ascoltatrice, Giorgia, da Milano. La domanda è, in caso di contagio, cosa avviene al paziente? È sempre letale o è possibile scamparla? Professoressa Gismondo, ultimi minuti di trasmissione. Allora, perché la Cina? La Cina ci regala ogni anno dei virus influenzali. Perché la Cina? Perché nella Cina c'è una condizione di contatto diretto con gli animali che fa sì che diventa un incubatore di virus. E quindi da lì spesso poi partono, come abbiamo detto prima, verso il resto del mondo. Per quanto riguarda il paziente che viene infettato, che si trova infettato, le cure non sono conosciute contro questo virus. Ecco, voglio per cortesia fare una raccomandazione di non fare incetta di antibiotici, perché non servono a niente. Togliamo poi gli antibiotici a chi ne ha veramente bisogno, cosa che è successo durante la SARS. La mortalità, dicevo, è intorno al 20-25%. La risposta del paziente, la cura del paziente dipendono dalle condizioni di fondo del paziente. Se il paziente è un anziano debilitato, un paziente che ha già delle malattie gravi, ovviamente ha più probabilità che il decorso sia nefasto. L'altra cosa importante è che il tempo nel quale si interviene con la terapia, con la diagnosi e con la terapia, in qualsiasi malattia infettiva. Professoressa Gismondo, in questo periodo noi però siamo nel clou dell'epidemia influenzale, ma nel caso il virus arrivasse da noi, come fate voi a intercettare la persona con il virus cinese rispetto a quella che ha il colpito da influenza stagionale? I sintomi, mi sembra di leggere, sono pressoché simili. In questo momento ci aiuta la provenienza. Noi abbiamo avuto dei pazienti che sono venuti alla nostra osservazione, due pazienti stanotte, i quali provenivano da quella provincia, quindi ci siamo allertati, abbiamo fatto tutti gli esami in maniera tale da escludere che fosse il coronavirus, e dico a tutti, l'abbiamo escluso, non c'è nessun caso. Quindi in questo momento non abbiamo bisogno di questo tipo di approccio, perché chi viene da noi e ha questi sintomi, se proviene da quelle zone, viene trattato, viene fatto un esame dei suoi campioni respiratori per intercettare l'eventuale coronavirus 2019. Se non proviene dalle zone infette e se non ha avuto uno stretto contatto con un caso sicuramente positivo, come d'altra parte è illustrato chiaramente nella circolare ministeriale, non la sottoponiamo né a isolamento né a test per il coronavirus. Saranno altri virus influenzali e quindi avrà il suo decorso. Nel caso che speriamo non arrivi, e io sono sicura che non arrivi, in cui si dovesse avere una circolazione epidemica, quindi nel caso di una pandemia a questo punto, allora le cose sarebbero completamente diverse, nel senso che tutti questi pazienti con una gravità di sintomi respiratori dovranno essere sottoposti a diagnosi sia per il coronavirus sia per gli influenzali. Professoressa Gismondo, la ringrazio per essere stata con noi oggi, per aver risposto a molte delle domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori. Ancora alcuni ascoltatori scrivono: ma allora le mascherine servono? Qua in Italia non c'è bisogno di mascherina, professoressa Gismondo, ripetiamolo ancora una volta. Respiriamo a pieni polmoni, ecco, non c'è bisogno. E laviamoci le mani, questo serve sempre. Vero? Con emergenza o no? Le mani sono il peggiore e il migliore per i virus, vettore del virus. Professoressa Gismondo, la saluto. Buon weekend. Credo che ci sentiremo comunque ancora per monitorare un po' le mosse del virus cinese. Buona giornata. Sì. Buona giornata a voi. Ringrazio in regia Filippo Aureggi, in assistenza e redazione Edoardo Lavezzari. Io vi do appuntamento come sempre domani. Domani ci sentiamo per la bufala in tavola, nuovi temi, nuovi ospiti. Mi raccomando, non mancate, mangiamo tutti insieme appassionatamente per una domenica speciale. E poi, come sempre, ci sentiamo due volte al giorno, ogni giorno da lunedì al venerdì e a mezzogiorno e 5 con la diretta Facebook. Buonissima giornata dalla vostra salutare ossessione quotidiana. A domani!